In camera di Sara. Le 9 di sera circa. Just a minute. Yeah. Signorina Jenkins? Sì? Ci sono fiori per lei. Ecco. Beautiful! Ma chi... C'è un biglietto! Oh, sì! Benvenuta a Firenze, Lorenzo! Oh, my God! This is incredibile!